se bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone e le coppiette se ne vanno via. Quanto se bella Roma quando piove. Quanto sei grande Roma, quando è il tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora sui sette colli e le finestre so tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella. Quanto sei bella. Oggi mi sembra che il tempo si sia fermato qui. Vedo la maestà del Colosseo, boccia del mondo infame, Roma capoccia del mondo infame. Una carrozzella va con due stranieri, un rubi vecchi te chiede scoperta stamattina, io t'ho scoperta. Boccia